известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. The body was brought out of the rubble within the last three quarters of an hour, but unfortunately did not make it alive. We have various family members standing around waiting for news as to whether their loved ones are still trapped in there. And it's a similar story, literally only just up the road in another student dormitory where there are believed to be four bodies trapped. So, you know, rescue operations here still ongoing, but some sad news at this particular site only recently, Max. In terms of the reaction from the press, ci eravamo distratti perché sta uscendo peraltro una notizia da Fox che parla di una inattesa deviazione di Barack Obama verso l'Iraq sulla strada di casa lasciata la Turchia, ma appariranno credo presto approfondimenti. Ma CNN racconta per il secondo giorno di seguito, lo stesso fanno in questo momento tutte le televisioni americane, inglesi, anglosassoni e di tutti gli angoli del pianeta, il disastro dell'Abruzzo. Lo fanno con uno straordinario sgomento, una partecipazione e cercando di restituire ai propri spettatori, al proprio pubblico, ai propri ascoltatori la dimensione di come tutto ciò sia vissuto poi in quello strano, appassionante paese che è l'Italia, soprattutto visto da lontano, guardato, osservato dalle altre nazioni, no? Con questo carico, questo coefficiente di storia che lo rende unico. Certamente molti accenti, soprattutto dalle televisioni americane, vengono messi sui crolli, sui problemi strutturali che hanno colpito, che sono al centro di buona parte delle vittime di questo terribile sisma. Poi un po' tutti i giornalisti a un certo punto abbandonano, no, la presa sul problema, dicendo: ma vi rendete conto, noi stiamo parlando dell'Italia, il paese della storia, il paese dove un qualsiasi villaggio, una qualsiasi aggregazione può avere come niente 1000 anni di storia alle spalle, e di conseguenza è naturale che ci siano case antiche, che ci siano monumenti, che ci siano chiese e che ci siano costruzioni magari di piccoli paesini perse tra le montagne, realizzate ancora con tecniche antiche. Però al tempo stesso la pulce nell'orecchio lo stanno mettendo, quelle case in un certo senso non avevano una predisposizione, ma diciamo erano sicuramente esposte spesso e volentieri, soprattutto stiamo parlando di quelle vecchie, a crollare sotto l'attacco, sotto il peso di un sisma tremendo come quello che è andato in scena. Anche se è di un paio d'ore fa la notizia che la procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo nei confronti di ignoti, ipotizzando responsabilità nella costruzione degli edifici crollati. Si tratta, viene specificato, di un atto dovuto, ma un poco alla volta, no? Anche poi sull'onda dell'emozione per il crollo di quell'ospedale, che invece non è un monumento antico, ma doveva essere, non dico un prodigio tecnologico, ma se non altro una struttura atta a svolgere i propri compiti anche in una situazione di emergenza come quella presente, invece tutto ciò non è accaduto. E poi ci sono spesso e volentieri da parte dei giornalisti nostrani, come di quelli di altre parti del mondo, i raffronti, no? Se un sisma del genere avesse colpito di qua e di là, che cosa sarebbe successo. Noi vogliamo approfondire subito in apertura questo argomento che ci sembra interessante e in un certo senso sta coinvolgendo un po' l'attenzione, la passione, i pareri di tanti italiani, sentendo i punti di vista di Mario Como, che è docente di tecnica delle costruzioni a Tor Vergata e ci può in questo senso sicuramente illuminare e aiutare. Buongiorno Como. Buongiorno. Dunque, il discorso, naturalmente poi i due grandi poli, no, in questo caso della rappresentazione, del confronto, con tutto il teorico che può avere un confronto di questo genere, sono americani e giapponesi, la famosa California che sta lì in sempre americani e giapponesi. Benedetta attesa del Big One, che però per fortuna loro tarda ad arrivare, e i giapponesi, di cui noi vediamo questi filmati di terrificanti terremoti, poi tutti si rialzano in piedi e ripartono come se nulla fosse, perché sanno evidentemente preparare diversamente le nostre case. Lei, osservando le cronache delle ultime ore, che idea si è fatto? È, come dire, una predestinazione nella stessa natura del fatto di essere italiani e di vivere secondo certi modi, certe tradizioni, anche certe probabilmente abitudini costruttive, o qualcosa dal suo punto di vista tecnico di osservazione poteva essere fatto meglio, forse riscontrato lungo la strada? Mi dica. Già ho capito. Dunque, certamente diciamo le realtà californiane soprattutto, perché quella è la zona degli Stati Uniti più colpita dai terremoti, o il Giappone, sono realtà diverse e tra di loro anche molto diverse dalla realtà italiana. Il problema diciamo più serio per quanto riguarda, almeno dal punto di vista concettuale, diciamo, certo, l'Italia, sono i centri storici, gli edifici in muratura, che sono poi la maggioranza delle case d'Italia, perché certamente abbiamo tanti edifici in cemento armato, ne abbiamo anche diversi in acciaio, però la maggioranza, quando andiamo per le città e soprattutto per i paesi dell'Appennino, quelli più vicini alle aree sismogeneiche, edifici in muratura. Gli edifici in muratura costruiti 200-300 anni fa, che quando sono stati costruiti nessuno ha mai pensato che dovessero sostenere un evento sismico. Certo, certo. Quindi loro nascono per prendere dei carichi verticali. L'azione orizzontale costituisce per l'edificio in muratura di regola una sorpresa. Quindi certamente questo spiega, naturalmente con grande semplicità, ma naturalmente certo, certo, di larga massima, il fatto che quando noi abbiamo un terremoto in Italia in cui sono colpiti questi centri, abbiamo i danni maggiori e la maggiore numero di vittime. Abbiamo avuto il terremoto di Messina, là certo, erano tutti edifici in muratura, ci sono stati perlomeno credo 100.000 morti. Certo. Il terremoto di Avezzano del 1915 vicino certo, all'Aquila fece 30.000 vittime. Certo. Il terremoto dell'Irpinia Lucani dell'80, che io tra l'altro ho vissuto perché purtroppo ho i capelli bianchi, quindi ci ho lavorato, certo, l'ho certo, studiato, eccetera, purtroppo fece 3.000 vittime. Naturalmente in tutto questo ci sono anche gli edifici in cemento armato. E gli edifici in cemento armato, quelli costruiti in aderenza alle norme sismiche o quelli costruiti senza considerare le norme sismiche, perché casomai non erano stati, a quell'epoca della loro progettazione non erano vigenti delle norme. Bene, aspetti. Sono problemi a parte, ognuno dei quali, tra l'altro, a quello che ho sentito prima, ecco, ci sarà un'inchiesta per le cause. Quindi diciamo io non posso entrare nel merito dell'ospedale. Mi dia semplicemente un parere anche da spettatore, da italiano, da consumatore di notizie come lei, insieme a tutti noi, è in queste ore. Bene o male, dal punto di vista della professione che svolge, al momento in cui riceve due notizie su cui vorrei due commenti da parte sua: il fatto che un ospedale modernissimo costruito in un'area sismica però viene a crollare sotto il peso di un sisma come quello della portata a cui abbiamo assistito, e poi naturalmente ci si meraviglia di questo, questo è un fatto normale, naturalmente non è logico. Naturalmente poi bisognerà vedere, perché abbiamo avuto anche una normativa sismica che ha avuto una grossa evoluzione in questi ultimi tempi, non so quanto è stato costruito, non lo so questo, quindi non posso entrare nel merito così, ma certamente desta molto meraviglia un fatto di questo genere. La normativa vigente adesso dà agli ospedali dà una categoria di edifici particolari di alto interesse strategico, perché quando arriva un terremoto ci sono vittime e l'ospedale deve funzionare, quindi certo, per legge deve avere una resistenza più elevata degli edifici adiacenti per adibiti a civili abitazioni. E al tempo stesso il fatto che un centro città antico come quello del, sì, dell'Aquila, in presenza di mesi di eventi sismici, per quanto assai più ridotti, come quelli che hanno preceduto invece il terremoto dell'altra notte, non venissero sottoposti a, a controlli particolari? Guardi, le sembra fatale, come dire? Gli eventi che sono stati definiti sciami sismici, certo, non hanno prodotto danni, certo, di una certa, certo, rilevanza, certo, che peraltro sarebbero stati riconoscibili da quadri fessurativi, certo, che si sarebbero potuti vedere, eccetera. Allora l'effetto, diciamo, del deterioramento può essere molto piccolo se non ci sono lesioni, se non ci sono danni. Se invece sono lesioni, la cosa potrebbe avere una certa rilevanza. Però credo che in questo caso gli stessi inquilini se ne sarebbero andati, naturalmente. Oh, per concludere il professore, per concludere il raffronto con quanto avviene. I giapponesi, volevo dire questo. Ecco, questo il Giappone, sapere. Esatto. Il Giappone, gli edifici civili, le case, sì, loro se li fanno, la maggioranza sono di legno, uh-huh, sono delle case piccole di legno, perché loro così si proteggono. Poi se devono fare dei grandi alberghi, dei grandi edifici per i loro uffici, uh-huh, fanno dei super grattacieli di grande capacità resistente, tra l'altro hanno sviluppato anche il sistema dell'isolamento sismico, eccetera, eccetera. E quindi è un discorso completamente diverso. Negli Stati Uniti, nelle zone della California, abbiamo spesso edifici piccoli, piccole case, quasi, diciamo, di legno, certo, in cemento armato, ma delle case leggere. Certo. E poi abbiamo invece grandi grattacieli che sanno ben difendersi dai terremoti con grande efficienza e grande modernità. Ma questi gli ingegneri italiani lo sanno anche fare, non è che non lo sanno fare. Non c'è differenza di preparazione tra l'ingegneria sismica italiana e l'ingegneria sismica giapponese o americana. Perfetto. Nei congressi si discute su queste cose ed è un fatto riconosciuto. Ci sono centri di ingegneria eccezionali in Italia, ce ne sta uno recente a Pavia, uno a Napoli. Ho capito. In pratica professor Como, quello che ci sta dicendo è che stiamo pagando il peso della storia, probabilmente, come abbiamo detto in apertura, e anche certamente una non predisposizione a prevenire eventi di questo genere, e soprattutto quando vecchie case vengono tuttora abitate, come capita in tanti paesi sparsi per la penisola e in particolare poi anche nell'area abruzzese interessata dal disastro. Io voglio ringraziare Mario Como, vi ricordo, il docente di tecnica delle costruzioni a Tor Vergata. Per tutta la notte si sono susseguite le notizie, no? La diretta con l'Aquila e le zone limitrofe, dove i soccorsi continuano interrotti. Berlusconi ha detto che per altre 48 ore sicuramente si scava. Tra poco approfondiremo anche questo aspetto. Di tanto in tanto arrivavano delle notizie fantastiche. Alle 2 di notte c'è stato quel grido di Marta, la ragazza tirata fuori dalle macerie, che ha reagito con una energia vitale che ha dato sicuramente una grandissima emozione a chiunque l'abbia ascoltata, per la contentezza e anche così per la simpatia nei suoi confronti. Gli dedichiamo una vecchia canzone dei Beatles che porta proprio il suo nome, Martha, my dear. In the thick of E dunque c'è un altro discorso, ieri l'abbiamo cominciato ad accennare sulla nostra pagina di Facebook, oggi l'abbiamo ripreso perché pensavamo, supponevamo, temevamo, non è che facciamo i profeti di professione, insomma l'aria che tira un po' si conosce, che diventasse un oggetto di dibattito, e puntualmente le agenzie registrano l'uscita di Franceschini che ribadisce la linea scelta dal PD di fronte al dramma dell'Abruzzo, che doverosamente informa che di fronte all'emergenza non ci deve essere nessuna polemica perché è il momento di unire tutte le forze del paese, ma poi aggiunge che sostanzialmente il paese, l'Italia, deve accettare gli aiuti internazionali nella soluzione del dramma del terremoto in Abruzzo, mentre invece, anche se non è completamente ufficiale, ma è stato già ribadito da più parti, sembra esserci una gran voglia di far da soli, perché la tecnologia c'è, l'unità di intenti c'è, l'entusiasmo, la professionalità ci sono, i mezzi sembra non mancare, probabilmente si asserisce, dobbiamo crederlo, che non si possa fare mai meglio di così, e quindi facciamo da soli. È un oggetto al centro, secondo me, di future vicine polemiche, caro Emiliano, e abbiamo chiesto, tanto per cominciare, il vostro parere nel nostro spazio che si chiama Express Yourself. Allora, intanto ricordiamo che tutto è nato da una frase di Maroni, che ha ringraziato gentilmente dell'aiuto che è stato presentato da tante organizzazioni straniere, da tanti paesi all'estero, però ha detto no, penso che ce la faremo da soli, e abbiamo rilanciato su Facebook questa questione e abbiamo fatto il record, possiamo dirlo, di contatti, di mail, di messaggi. Evidentemente il tema giustamente emoziona e appassiona. Allora, direi che prevale il partito patriottico, quello orgoglioso che dice no grazie agli aiuti. Per esempio c'è Stefano che brillantemente scrive yes we can, semplicemente tre parole ma efficacissime. E poi c'è Marino che dice sì, penso che ce la facciamo da soli. Però poi c'è anche il partito degli scettici, per esempio Patrizia dice siamo certamente bravi, ma perché rifiutare stanziamenti stranieri? Noi aiutiamo tutti, perché non dovremmo farci aiutare dagli altri? E sulla stessa lunghezza d'onda Cristiano che scrive, considerando che c'è gente che da anni vive ancora in roulotte o prefabbricati, qui si torna soprattutto all'Irpinia, forse se ci danno una mano è meglio. Dunque, prima di cominciare la lista di vostri interventi, voglio darvi nota, veramente questa è la più in attesa di tutte delle notizie, di questo aiuto che è arrivato, Emiliano, dagli Stati Uniti d'America, insomma questa nazioncina così periferica, che alla luce della notizia tremenda del sisma ha stanziato $50,000, che in euro siamo sui 37-38 mila euro, buoni per un box in zona non troppo centrale. E comunque gli Stati Uniti hanno donato $50,000 in aiuti di emergenza all'Italia. Mandiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle persone scomparse nel terremoto. La nostra ambasciata di Roma provvederà $50,000 come funding, emergency relief funding, come sostegno per gli aiuti di emergenza. Tutto ciò è stato detto dal portavoce del Dipartimento di Stato Robert Wood ai giornalisti. Dunque, e meglio di niente, tutto sommato. No, meglio di niente. Vorrei sapere come li usiamo questi 50.000. Vabbè, quindi Flavio dice tecnicamente ce la possiamo fare, specie se non entrano in campo i lacci e lacciuoli politici. Giulio dice autarchia, ma che dite? Bertolaso sta facendo un ottimo lavoro, perché invece non vi arrabbiate con l'Italia dei valori? Quali valori? Che parla di tragedia annunciata? Fabio, ritengo che in materia di calamità naturali la nostra protezione civile e gli organi preposti alla gestione delle emergenze non abbiano nulla da invidiare al resto del mondo. Federico, credo che bisognerebbe accettare soprattutto i fondi per ricostruire in modo antisismico, vedi servizio di poco fa, i paesetti distrutti, vigilando dall'estero che qualche nostro amministratore furbone non dirotti i soldi ad altri furbetti amici suoi. La genia dei furbi. Andrea, le strutture di protezione civile, Croce Rossa eccetera sono in grado di farcela all'immediato in maniera egregia. Il problema è la fase di supporto agli sfollati, la ricostruzione delle strutture. Come dire, al momento delle emozioni siamo tutti, dopo... E allora c'è Faber che dice penso che la grande voglia di Berlusconi di far vedere di essere operativo aiuterà l'Abruzzo. Poi però c'è un sottotesto di Faber che dice sperando che non se ne dimentichi in fretta. Invece Roberto, non aver accettato l'aiuto internazionale è secondo me uno sbaglio. Oltre ad un migliore e più rapido intervento di soccorso sarebbe stato un conforto tangibile e psicologicamente importante per la popolazione. E poi c'è Dario Durissimo, ne ammazza più l'orgoglio del petrolio. La solidarietà è sempre comunque a doppio binario, si dà e si riceve, altrimenti la nostra solidarietà agli altri puzzerebbe di supponenza. Ancora qualche parere espresso sulla nostra pagina Facebook. Roberto, perché incaponirsi a voler fare da soli quando tutti insieme si può essere più veloci e efficaci? La Russia comunista rispondeva sempre no grazie. Giampiero dice: il nostro Stato dovrebbe farcela da se stesso, in teoria. L'aiuto dall'estero non dovrebbe essere necessario. Mauro pensa: dobbiamo provare a farcela da soli. Se poi ci si accorge cammin facendo di aver bisogno di aiuto, troveremo modi e tempo per chiederlo. Davide: ritengo che la preparazione e la capacità organizzativa della protezione civile nazionali siano riconosciute in tutto il mondo. Basta pensare agli interventi compiuti in passato in occasione di catastrofi naturali accadute all'estero. E per concludere, uno straniero, Charles, che dice: ne sono convinto. Ormai la gestione è in buone mani, ma ricordiamo che la popolazione deve contribuire con azione e non con pianti. This is the very small town of Ona, Italy. Population 250. In most of town today looks like this. The magnitude of destruction grows by the hour. Small towns even farther from the epicenter wiped out. Continuano da parte dei notiziari americani che vanno in onda a tambur battente uno dopo l'altro. Adesso in questo momento è in onda la Fox con un servizio a più voci dall'Italia. Comunque il dibattito sul perché, si chiedono i giornalisti d'oltreoceano, perché in Italia sia successa questa cosa. È veramente un destino ineludibile per la fisica dell'abitazione abitativa in Italia, subire poi delle violenze di questo genere. Altre notizie importanti si stanno succedendo. Prima di tutto è arrivato, ha messo la freccia l'Air Force One ed è arrivato a sorpresa a Baghdad. Ci sono tutte le conferme. Il portavoce della Casa Bianca Gibbs ha detto che l'Iraq è stato scelto rispetto all'Afghanistan per la vicinanza alla Turchia. Insomma, volevano fare lo scherzetto, lo sgambetto al mondo dell'informazione, hanno scelto il primo aeroporto di crisi disponibile. Ma a parte gli scherzi, è un altro episodio importante da seguire in questo blitz lontano da casa di Barack Obama, che quindi conoscerà un'altra fermata importante, di cui vi daremo comunque conto. Sono in programma a Camp Victory un incontro con il comandante delle forze americane in Iraq, il generale Ray Odierno, con le truppe. Il viaggio era stato tenuto segreto, è giunto al termine di questi 8 giorni in giro per l'Europa e la Turchia. Tra l'altro c'è stata Anche una telefonata confermata, ormai una lunga telefonata tra Obama e Berlusconi. Se gli Stati Uniti vorranno dare un segno tangibile della loro vicinanza all'Italia, potranno prendersi la responsabilità della ricostruzione dei beni culturali e delle chiese. Questa sarebbe la proposta che Berlusconi avrebbe fatto a Barack Obama. Volete veramente fare qualcosa per noi? Bene, si ricostruiscano le chiese, dateci una mano a rimettere in piedi i pezzi migliori, i nostri beni culturali danneggiati dal sisma. Obama avrebbe risposto che è un'ottima idea e caro Silvio, ne parliamo quando vieni a Washington. Insomma, anche questo sodalizio con il nuovo presidente degli Stati Uniti da parte di Berlusconi pare avviato. Noi torniamo a parlare di situazioni parallele o comunque che echeggiano quello che sta andando in scena in Abruzzo. Abbiamo sentito Beniamino Natale, il corrispondente dall'ANSA della Cina, che è andato più volte in Sichuan, ha toccato con mano sia il terremoto terribile della Cina di circa di poco meno di un anno fa e poi anche le sue conseguenze, no? La ricostruzione, come è andata in scena, qual è la situazione degli sfollati, quali sono le loro condizioni, quanti sono? Sentiamo questo intervento di Beniamino Natale. Di stime ce ne sono varie e sono decine di migliaia, sono comunque decine di migliaia, e come vivono in... Il periodo peggiore è passato, perché andiamo verso la primavera, ma insomma certo è stato un inverno duro. Vivono in case prefabbricate con tutti i limiti che hanno le case prefabbricate, che sono decenti, sono state portate, prodotte, costruite nelle fabbriche per tempo con questa grande mobilitazione, ma sono pur sempre prefabbricati. E soprattutto la cosa che di cui si lamentano le persone lì nel Sichuan è che molti hanno perso il lavoro, tutti i commercianti, il settore dei servizi adesso stanno tentando di riprendere in qualche modo la vita, ma è difficile perché c'è da rimettere in piedi le scuole. Dove vanno i ragazzi a scuola adesso? Per adesso vanno ancora nei prefabbricati. Prefabbricati, quindi non appartiene soltanto alla realtà del presente italiano. Abbiamo stabilito un altro collegamento con un amico, un abitué qui di Jefferson, Saro Capozzoli, che però non abbiamo pescato come di consueto in Cina, dalle parti di Shanghai, ma in un paese che ha solo l'assonanza del nome. Si tratta del Cile, quindi nel cuore del Sud America, dove è in viaggio di lavoro, e mi sembra di capire quanto mi dice Emiliano, dove hai avuto a tua volta una brutta sorpresa, vero Saro? Sì, salve a tutti. Ciao. No, proprio un'ora fa siamo stati investiti da un terremoto anche qui. In Cile. C'è stato appunto un terremoto che sembra la conseguenza di questa grande eruzione di un vulcano che qui va avanti da alcuni giorni, no? Il Cile è un paese con una sismicità molto elevata, no? E quindi mi dicono che è normale, quindi non c'è niente da preoccuparsi. Ho capito. Qualche parere da te, Saro. Prima di tutto, non so se hai ascoltato Natale, il corrispondente dell'ANSA, che dava un po' lo stato delle cose poco meno di un anno dopo il terremoto del Sichuan. Hai qualcosa da dire al riguardo? Qualche considerazione su come è stata gestita la questione con le sue dimensioni ciclopiche, no? Sì, certo, appunto le proporzioni sono molto diverse, sono morte 80.000 persone, hanno avuto intere città, non paesi, ma lì città, in Cile si definiscono città, sono paesi che sono più di 1 milione di abitanti, quindi ci sono diverse città, ripeto, certo, che si sono state rase al suolo. Quello che io posso dire è che sì, è vero, le scuole sono ancora, la prima cosa che hanno fatto i cinesi è stato quello di mettere in piedi l'istruzione, le scuole, certo, nei prefabbricati, perché in quelle situazioni come si poteva, però la prima cosa, dopo una settimana del terremoto, quindi già intorno al 20 di maggio dell'anno scorso, tutti i bambini erano già a scuola, ecco, cercando di creare quel clima di normalità. Certo. La cosa è un po' complessa, infatti, perché lì stanno praticamente spostando intere città dai siti originari, posti in posizioni abbastanza difficili anche da raggiungere, eccetera, in altre zone più sicure. Si trasferiscono in città. Prendono questa diciamo, opportunità anche in questo caso per ridisegnare e rifare un intero territorio usando criteri moderni di progettazione. Ecco Saro, io proprio su questo ti volevo chiedere, perché abbiamo aperto, siccome cominciano a nascere sia su base nazionale che internazionale alcune polemiche sulle motivazioni alla base soprattutto delle perdite di questo, le perdite di vite umane di questo terremoto legate a come sono fatte le case e non solo le case delle città e dei villaggi abruzzesi. Un professore di scienza delle costruzioni poco fa ha fatto un raffronto con Stati Uniti, California e Giappone dicendoci quello che peraltro tu ben sai, ma ecco in Cina da questo punto di vista mi sembra di capire non si sta meglio che in Italia, anche se le costruzioni sono recenti. Beh no, diciamo lì ci sono paesi che esistono da migliaia di anni lì, non sono, ci sono certamente state costruzioni recenti, io mi riferisco anche alle scuole che sono state fra le prime a crollare anche lì in Cina, fatte con materiali scadenti, eccetera. Infatti c'è stata una grande polemica. Ma per vecchiezza, per antichità delle costruzioni o per cattiva qualità? Per speculazione e per corruzione, ecco, ma l'hanno detto lo stesso governo, hanno messo in prigione tantissimi progettisti, anche politici, per questo problema, perché lì avendo poi ogni famiglia un solo bambino, una perdita di un bambino è una perdita enorme per una famiglia, quindi c'è stata una reazione popolare molto elevata a questo. Il problema dell'Italia è che noi siamo legati al nostro passato, amiamo abitare in questi paesi che sono lì da centinaia di anni. Certamente non sono stati costruiti con criteri antisismici, no? Quindi diciamo è un problema che avremo sempre finché non avremo, qui qualcuno mi vorrà male adesso, però non riusciremo un po' a uscire fuori da questo legame troppo, diciamo, stretto con col passato, che continuiamo a ricostruire le cose come prima, no? Come erano centinaia di anni fa. La Cina su questo vedo che coglie questa opportunità per ridisegnare e rifare le cose meglio di prima, no? Noi purtroppo abbiamo un grande patrimonio storico, però le case secondo me, ma secondo molti altri, dovevano essere fatte in maniera diversa. Io vedo come sono state ricostruite le case nell'Irpinia, ogni volta che ci penso, io le mie origini sono del sud, no? Quindi quando torno da quelle parti mi vengono proprio i sudori freddi, se penso, se un altro terremoto, ecco, vedo come sono state costruite le case, molte ancora abusivamente, ecco, c'è anche questo problema. Quindi le cose nuove molto spesso sono anche abusive e quindi è molto difficile, diciamo, fare dei paragoni, ecco, con certamente il Giappone, gli Stati Uniti. Il Giappone è storicamente preparato, gli Stati Uniti è un paese relativamente nuovo, no? Quindi molte cose sono state fatte da poco. Quindi quello che noi vediamo in Cina, io posso parlare ovviamente molto di Cina e poco probabilmente d'Italia, no? Probabilmente anche questo, cercare di costruire quello che diciamo che è possibile secondo criteri moderni, preservando i monumenti storici e cercando di appunto di creare un equilibrio fra le due cose, ecco. Però non si possono certamente ricostruire i paesi come erano in passato, perché se no si ritrova appunto fra 40 anni, speriamo di no, ci si potrebbe trovare nello stesso problema. Va bene, grazie dei pareri, dei punti di vista, degli approfondimenti, per la conoscenza di una realtà così diversa come la Cina, da parte di Saro Capozzoli. She flies. Ecco, dunque Obama avrebbe dovuto spostarsi anche all'interno della zona verde dove si trovano l'ambasciata americana, il quartier generale fortificato degli statunitensi a Baghdad, però questa parte del programma è saltata per il cattivo tempo, probabilmente anche per qualche segnalazione poco promettente. Obama dovrebbe assegnare medaglie al valor militare a diversi soldati e ha parlato dell'Iraq prima di partire da Istanbul stamattina come di uno dei cambi politici fra la sua amministrazione e quella di George Bush. Il ritiro dovrà essere fatto in modo sufficientemente attento da non provocare un collasso nella violenza, ha detto Obama, che è così al suo terzo, alla sua terza visita in Iraq, anche se la prima da presidente c'era stato, ricorderete, al termine della campagna elettorale. Ora ci va per dare il segno della intenzione della sua amministrazione. Continuiamo a parlare del discorso discorsi che ruotano, diciamo così, attorno alla tragedia del sisma in Abruzzo. Abbiamo un altro interlocutore in linea, si chiama Lucio Bertini, è docente di costruzioni idrauliche alla Università La Sapienza, ricercatore del CNR, e con lui io vorrei parlare un momento di protezione civile, della condotta della protezione civile italiana, magari raffrontata, no, con altri tragici ma importanti, indispensabili interventi messi in atto in diverse parti del mondo, dall'Italia. Buon pomeriggio Bertini. Buonasera. Che idea si sta facendo dal suo punto di osservazione professionale, ma credo anche insomma più generalmente con una competenza riguardo a interventi di questo genere, riguardo a quello che sta facendo la protezione civile italiana messa un po' a specchio con diverse situazioni internazionali che ha avuto modo di seguire? Sì. Dunque, intanto io premetto che mi riferisco soprattutto alle esperienze che ho avuto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, cioè le inondazioni. Le alluvioni, quindi anche fenomeni franosi, movimenti di massa, quindi la diciamo, percezione che io ho della protezione civile è, diciamo, verso questo tipo di catastrofi naturali, che vede, ecco, il nostro paese intanto ha come peculiarità fin dall'inizio dell'attività di protezione civile con la costituzione del primo ministro della protezione civile, un nesso molto forte tra prevenzione, previsione, emergenza e soccorso, cioè si vede il fenomeno nella sua interezza, quindi si fa della prevenzione, se là dove è possibile, quando è possibile, della previsione, del preannuncio, un fatto molto molto molto importante nell'attività di protezione civile. Ecco, questo devo dire che è stato un po' sempre l'impostazione che è stata data un po' nel nostro paese. Quanto riguarda esperienze che posso dire, specialmente riferendoci agli Stati Uniti e al Giappone, vorrei sottolineare come un discorso di questo genere viene visto in maniera diversa nelle due paesi, nel senso che mentre in Giappone la costruzione di un'opera che poi può essere importante dal punto di vista della salvaguardia delle persone, eccetera, viene subito messa in relazione con la manutenzione che deve essere fatta di questa opera. Quindi ci si pensa all'origine, insomma. Ci si pensa subito a come, dice, guarda che come faccio questo, poi come deve essere mantenuta diventa un fatto quasi di progettazione, no? Ecco, poco fa, professore, un altro ospite sottolineava come in Italia ci possa essere notato in questo senso un difetto un po' strutturale, ma anche, come dire, un po' mentale. Per esempio, nelle ricostruzioni spesso non si tiene abbastanza presente delle lezioni duramente ricevute dalla natura, mentre altrove magari questo lo si fa. Che dice? Ma diciamo, questo è un fatto che forse è vero se noi andiamo a vedere la ricostruzione nel suo complesso, cioè mi spiego meglio qual è la fase, diciamo, più delicata secondo me della ricostruzione, poi è non tanto nella pianificazione, nella progettazione, ma quanto proprio nell'esecuzione e nel controllo. Cioè quello che credo, ecco, perlomeno da adesso non vorrei addentrarmi, per carità, in un campo molto molto spinoso, ma insomma, ecco, i controlli devono essere controlli che, se tutto quanto è stato previsto in fase di pianificazione, progettazione nelle varie, sia di massima che esecutiva, e poi bisogna il controllo che sia efficace, nel senso che se le cose non vanno, poi vanno sottolineate. E dal punto di vista della sua esperienza internazionale, ad esempio, facciamo un esempio per tutti, Katrina ha rilevato delle pecche, degli errori. Dunque, lì nel discorso di Katrina, secondo me, è un po' dovuto a l'attenzione degli Stati Uniti si è rivolta in questi ultimi anni soprattutto al terrorismo, diciamo, certo, che hanno la protezione civile, certo, delle catastrofi naturali, diciamo così, che era condotta dalla FEMA, dalla Fede delle Emergenze, dell'Agenzia di Protezione Civile, è passata tutto sotto un'altra casa, che è la Homeland Security, quindi la sicurezza soprattutto, e quindi è diventato un tassello, forse un'attenzione non così puntuale alle opere realizzate, una scarsa manutenzione, diciamo tra virgolette, ha provocato, perché non è stato l'uragano che ha provocato il disastro, sono stati gli altri che si sono rotti, quindi ecco, lì è la manutenzione che è stata, mentre ecco, forse c'è una questione di priorità anche, no, nelle attenzioni. Va bene, grazie a Lucio Ubertini, che vi ricordo è docente di costruzione idraulica alla Università La Sapienza. Un altro punto di vista professionale e un'altra sottolineatura al fatto che poi comunque è un procedimento complesso, è un procedimento che passa attraverso stadi diversi, quello in cui la protezione civile può garantire interamente la propria opera, e che comunque non sono esenti da errori, anche esempi straordinari come quello per esempio americano. Continueremo a seguire lo sviluppo di questi eventi, però fateci prendere una pausa, fateci svoltare, come dire, un attimo sulle cose che fanno parte del nostro quotidiano, in certi casi anche il nostro eccezionale, e fateci soprattutto sottolineare una cosa. Ladies and gentlemen, on behalf of the NCAA and Dr. Miles Brand, to whom we all send our very, very best wishes, and on behalf of the Men's Basketball Committee, I want to congratulate both teams for a great season, a great tournament run, and a great performance tonight. Insomma, è finito il campionato college americano, quello di cui Barack Obama circa una quindicina di giorni fa aveva espresso un pronostico, dicendo: delle 64 finaliste, cari americani e cari appassionati di tutto il mondo, io vi dico che vincerà una che si chiama North Carolina. E ci sono state molte discussioni, anche dibattiti sulla opportunità di un gesto del genere, tutto quello che volete. Noi stessi qui, Saputoni e Jefferson, abbiamo espresso i nostri contropareri qua e di là. Beh, la volete sapere una cosa? Ha vinto North Carolina perché l'aveva detto Barack Obama, o forse Barack Obama l'aveva detto perché lo sapeva, forse Barack Obama ne capisce più di noi di pallacanestro, forse Barack Obama capisce di tutto, io non lo so, non so più che dire, becca addirittura i pronostici. Noi gli manderemo una richiesta per i numeri dell'otto, ma intanto chiudiamo qui la puntata di oggi di Jefferson 2. Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti e a Milano Fabio Cantadori, la mail Jefferson 2 @radio24.it, su Facebook due pagine, redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, iscrivetevi numerosi, fate la trasmissione insieme a noi. Se siete appassionati di Obama, occhio, perché domani mattina Giuliano Ferrara si occuperà di Barack Obama nel suo programma dalle 9 qui su Radio 24, sotto osservazione il bilancio del viaggio in Europa di Obama, e io ci metterei a questo punto anche la puntatina a Baghdad. Invece Jefferson lo sentite in replica alle 24 o domani in diretta, come sempre, qui da Radio 24. A risentirci. 墙闪亮的面具，老是哭哭又啼啼，会引起所有人的同情。受伤的记着秘密。